Eccoci, bentornate, bentornati. Bambine e bambini, venite qui. C'è una nuova pillola di matematica che vi aspetta. Un racconto, speriamo divertente, speriamo appassionante, è destinato soltanto ai piccoli e alle piccole, cioè anche a noi che siamo in realtà grandi, però i noiosi, i grandi noiosi, devono andare laggiù in fondo e stare in silenzio. Allora, tanto voi avvicinatevi, potete sedervi dove volete e dovete prendere soltanto carta e penna e poi possiamo partire. Ok? Allora, tutti pronti? Tutti pronte? Allora, la storia di oggi io la intitolerei Carletto e i 100 numeri. Se qualcuno di voi la conosce, mi raccomando, silenzio. Allora, c'era una volta un bambino di nome Carletto. In realtà il bambino si chiama Carl Friedrich Gauss, però Carlo Federico sostanzialmente, però noi lo chiameremo Carletto. Allora, Carletto sta in Germania, siamo nel 1777, quindi un bel po' di tempo fa, e siamo in un paesino che si chiama Braunschweig. Allora, in realtà siamo nel 1787 perché nel 77 Gauss nasce e nell'87 ha 10 anni e lo ritroviamo in aula a scuola in una classe con tanti bambini e forse anche qualche bambina al terzo banco. Allora, oggi stamattina è la prima lezione, quella di matematica, e il maestro è Buttner. È un maestro, noi non sappiamo, qualcuno dice che sia un maestro abbastanza cattivo, però forse questa è soltanto una favola, non è vero. Sta di fatto che forse oggi Buttner, il maestro, non vuole né urlare né fare lezione, vorrebbe stare tranquillo per un'ora e decide una cosa, decide di dare un compito, un esercizio, un problema ai suoi alunni. E allora dice: prendete una lavagnetta, prendete anche il gesso, svolgete il compito che sto per assegnarvi in assoluto silenzio e poi quando finirete consegnerete la lavagnetta qui sulla cattedra, girata verso il basso e ritornerete sempre in assoluto silenzio al vostro posto fino alla fine dell'ora. Oddio. Tutti cominciano a tremare. Un esercizio che dura un'ora. Mamma mia, sarà difficilissimo. Ecco l'esercizio, dice Buttner. Non lo ripeterò. Dovete calcolare la somma dei primi numeri, dei primi 100 numeri, da 1 a 100. Siete pronti? Via. Mamma mia, che paura. Oh, intanto interrompo il racconto, ma l'abbiamo capito qual è l'esercizio? Maestro Buttner obbliga i suoi alunni a fare questo calcolo, la somma dei numeri naturali da 1 a 100, cioè 1, 2, 3, 4, 5, 6. No? Abbiamo capito. È abbastanza facile questo esercizio per voi? E va bene, andiamo avanti. Allora, Buttner apre il giornale, si mette a giocare con il cellulare, col videogioco, si accende una pipa, no, non sappiamo, no, alcune di queste cose certamente non può farle e la storia non la sappiamo perfettamente, quindi noi pensiamo che Buttner, dopo aver lanciato il via allo svolgimento di questo compito, comincia a rilassarsi, a stare tranquillo, però dopo nemmeno un minuto, da lì, dal terzo banco lì sulla sinistra, vede Carletto che si alza. Guarda adesso come quel cretino di Carletto si becca un bel ceffone da Buttner, pensa qualche compagno che vede questa scena, ma invece Carletto in silenzio si alza, gira la lavagnetta verso il proprio petto, si avvicina alla cattedra e, come aveva detto il maestro poco prima, la rigira a faccia in giù sulla cattedra e silenziosamente torna a posto. Cosa avrà pensato, secondo voi, il maestro Butner? Beh, forse si sarà arrabbiato, forse avrà urlato contro, non so, magari l'avrà anche picchiato, forse no, no, ma non credo. Forse all'epoca si poteva fare, no, certo oggi no. Magari avrà preso la lavagnetta e l'avrà girata per vedere cosa c'era scritto sopra. Io penso di no, io penso, io avrei fatto così, avrei resistito. Ah sì, tu mi sfidi così, Carletto, e allora anche io ti sfido, non girerò la tua lavagnetta, non ti darò questa soddisfazione. Comunque sia andata questa storia, sta di fatto che Carletto, dopo un minuto, ha già consegnato la sua lavagnetta e rimane in silenzio per tutta l'ora. E tutti i compagni e le compagne cominciano a sudare, a sbuffare, a cancellare, a scrivere su questa lavagnetta e Butner, il maestro, rimane in silenzio a osservarli tutti. Oh, passa il tempo, passano i minuti e i bambini e le bambine alla fine cominciano a consegnare perché poi il compito, la lavagnetta deve essere consegnata. E quindi il secondo bambino si alza, in silenzio va verso la cattedra, prende la lavagnetta, la rigira senza farla vedere, la poggia sopra quella di Carletto e se ne va al posto. La stessa cosa fa il terzo bambino, il quarto, via via, il penultimo e l'ultimo. L'ultimo si alza e quindi gira la lavagnetta in alto sulla cima di questa pila. Allora, Butner cosa fa? Mancano 5 minuti alla fine dell'ora e decide di controllare tutte le lavagnette. Prende la prima, dalla cima, ovviamente dall'alto, cioè del bambino che aveva consegnato alla fine, la guarda, vede un attimo e bam, per terra, sbagliato. Prende la seconda, la controlla, gira, legge, bam, per terra, sbagliato. Prende la terza, sbagliato. La quarta, sbagliato. E così via, sbagliato, sbagliato, sbagliato, fino all'ultima lavagnetta. Arrivato a quella di Carletto, prende, la gira e che dirà, secondo voi? Esatto. Dirà proprio questa è giusta. Io non lo so, poi dopo come abbia commentato questo fatto il maestro, forse avrà detto Carletto, ma tu hai copiato. Oppure avrà detto sì, ma da chi avrà copiato? Avrà detto hai usato la calcolatrice, non potevi farlo. Ma io penso che questa cosa non sia stata possibile perché no, la calcolatrice non credo esistesse all'epoca. Ma forse avrà detto, signor Carl Friedrich Gauss, mi complimento con lei. Venga alla lavagna e svolga l'esercizio davanti a tutti. Non lo so, forse questo avrà detto. Sta di fatto che da quel momento il maestro Butner capì di avere in classe un genio della matematica che poi è diventato, dopo molto, molto, molto, molto studio, è diventato Carl Friedrich Gauss, il più grande matematico del mondo. Forse. Vi è piaciuta questa storia? Beh, sì, no, è bellissima, per me è molto bella. È finita così. Ah no, non è finita, che dite? Non è finita, certo che è finita la storia, non c'è la lavagnetta, è la lavagnetta. Ah, che c'era scritto sulla lavagnetta. No, ragazzi, ah sì, è vero, ma la storia questo non ce lo dice. Nessuno sa quello che c'era scritto, cosa avrà scritto mai Carletto. Ma scusate, ma è che ve lo devo dire io quello che c'è scritto sulla lavagnetta? Voi l'avete capito, no? L'esercizio. E allora, scusate, io mi riposo un po' e voi fate questo esercizio. Ci sentiamo un po' di musica e subito dopo torniamo, così la storia la finiamo veramente. Va bene? E allora adesso un po' di musica. Mi raccomando, sommiamo i numeri da 1 a 100. Allora, eccoci tornati e beh, qual è la risposta? Ditemela. 100? No, allora 100 non può essere perché l'ultimo numero, un numero vale 100, quindi sommare tutti gli altri ovviamente fa più di 100. No, 1000 no, perché 1000 no? Perché 1000? Avete buttato così a caso il risultato? No, non si fa così. Bello, infinito. Ma che numero è infinito, scusa? No, l'hai detto un po' così. No, no, no, dobbiamo ragionare. Dobbiamo ragionare, allora dobbiamo prendere. L'avete preso questo foglio? Lo prendo anche io, eccolo qua. Comincio a scrivere i numeri. 1, 2, 3, 4. Li sto mettendo tutti in riga, uno vicino all'altro, poi puntini, puntini, a me non mi va di perdere troppo tempo. Poi 97, 98. 99 e 100, eccoli qua. Allora, ce l'ho davanti tutti e 100 numeri. Che devo fare? Devo sommarli. Allora, l'avete fatto? È noioso, dite? È lungo? Allora, 1 più 2 fa 3, più 3 fa qua, no, già mi sono perso, 3 più 3 fa 6, che sciocco. Più 4, 10, più 5, 15, no, non ce la posso fare, no, poi in un minuto poi non ce la farei mai. No, è troppo lungo, mi serve la calcolatrice, mi serve il foglio più grande, no. E, beh, allora dobbiamo trovare un altro metodo, ragazzi. Che metodo possiamo trovare? Troviamo, inventiamoci qualcosa, perché non possiamo fare 100 addizioni e poi dopo ci perdiamo magari nel mezzo. E allora io direi di prendere e unire l'1 con un bellissimo arco dell'arcobaleno, no? L'avete visto? Avete fatto gli arcobaleni? L'avete visto gli arcobaleni alle finestre? Ecco, no, le cose non vanno benissimo, però in questo momento a noi ci serve di unire con un arco l'arcobaleno fino a 100, quindi 1 lo colleghiamo col 100 e poi rimane il 2 e lo collego con un arco fin giù, eccolo qua, fino al 99. Poi collego il 3 con il terz'ultimo numero che è il 98, il 4 lo collego con il 97 e così via, fino ad arrivare all'ultima coppia di numeri che è 50, lo lego con un piccolo arcobaleno, l'arco col 51. Ok, allora, e quindi ho collegato tutti i numeri. È un bellissimo arcobaleno di 50 archi. Caspita, quanti colori che mi servono. Però vabbè, noi qua non stiamo colorando, noi dobbiamo fare la somma. Allora, 1 più 100 fa 101, 2 è collegato col 99, 101, 3 è 98, 101, 4 è 97, 101 e così via, così via, così via, fino a 50 che è collegato col 51 e fa 101. Ah, caspita, fa sempre 101. E quante volte fa 101? Un arco, 50 volte 101. Ah, 50 volte 101 significa 50 per 101, che i più bravi questo lo possono fare. 50 per 101 fa 5050. Che numero strano, ma sarà giusto? Boh, vediamo, troviamo magari un altro modo, per farlo, per controllare, facciamo una verifica. Allora, io mi riscrivo tutti i numeri da 1 a 100, 1, 2, 3, eccolo, 4, puntini, puntini, 97, 98, 99, 100, su una riga. E poi sotto, lo sapete che faccio? Riscrivo tutti i 100 numeri, però a partire da 100 a finire. per finire con l'1. Quindi sotto l'1 in alto ci metto il 100, sotto il 2 ci metto il 99, poi 98, 97, puntini puntini, fino a 4, 3, 2, 1. E quindi poi tiro una riga e faccio le somme. Le somme le faccio in verticale. Quindi l'1 unito col 100 fa 101, 2, 99, 101, 101, fino all'ultimo che è 100 più 1 che fa 101. Quindi queste due righe sommate orizzontali, sommate verticalmente, mi danno 101 100 volte. Wow, 101 100 volte. Quindi devo fare 101 per 100, questo è facile, devo aggiungere due zeri, quindi fa 10.100. Ah, 10.100 però. Ah, vabbè, ma certo, in questo modo io ho sommato due volte i numeri da 1 a 100, invece devo sommarli. Buttner aveva detto di sommarli una sola volta, e quindi devo fare 10.100 diviso 2 o 5.050. E allora è giusto. Eh sì, ragazzi, è proprio così. La lavagnetta di Carletto aveva su soltanto un numero scritto. 5.050. Il maestro Buttner, leggendo questo numero, capì che di fronte c'era un piccolo genietto, che Carletto era veramente bravo, e dunque prese Carletto da quel momento e disse: tu dovrai studiare matematica. Gli diede tanti libri, anche molto difficili, e Carletto dimostrò di essere veramente, veramente bravo in matematica. E ancora oggi noi studiamo tutte le sue scoperte matematiche, tutti i risultati dei suoi studi che sono ancora oggi validi. E sono Gauss. Viene studiato, adesso parlo con i grandi, in statistica, quando faremo, quando si parla di statistica, la curva di Gauss è una curva a forma di campana che parla della distribuzione normale, cosiddetta, e studiò tutti gli ambiti della matematica e divenne veramente bravo. Quindi, niente, la storia finisce qui. Se volete, possiamo raccontare la fine dopo un po' di musica, così ci rilassiamo un attimo. Eccoci tornati con la pillola di matematica. Abbiamo incontrato, abbiamo conosciuto Carletto e i suoi 100 numeri. La domanda forse che ci possiamo porre è: ma a che serve? A che serve sommare i 100 numeri e soprattutto quando mai io sommo nella vita 100 numeri? Non lo so. E allora io in realtà penso questo, che quando noi andiamo a giocare al parco, in giardino, quando andremo a giocare nel parco, e c'è un gioco divertente che possiamo fare, c'è la piramide umana. Non so, voi l'avete già fatto la piramide umana? Beh, io quando ero piccolino l'avevo fatta, cioè consiste nel creare una piramide tra tutti noi bambini, i più grossi si mettono sotto a quattro zampe sul terreno e poi noi saliamo sopra e ci mettiamo a quattro zampe, e poi sopra di noi salgono altri fino a formare una piramide umana. È una cosa molto divertente che peraltro in un telefilm famoso che i vostri papà e mamme, i vostri zii, i vostri nonni forse anche ricorderanno, la famiglia Bradford nella sigla, erano 10 componenti della famiglia e sostanzialmente si costruivano una piramide umana, formavano una piramide umana, accovacciandosi la prima fila in quattro, poi sopra di loro tre, poi due e poi uno, e quindi 4, 3, 2, 1, e beh, la somma dei primi quattro numeri fa proprio 10. E E quindi non so se voi siete tanti bambini e tante bambine, state nel giardino, state su un prato e volete costruire la piramide umana, dovete vedere quanti siete. Quindi supponiamo che siate tantissime, fate la prima fila di 100 bambini, poi tutti accovacciati, uno vicino all'altro, in riga. Poi subito sopra, quelli un pochino più leggeri, si mettono a quattro zampe, però non dovete poggiare tutto su un unico bambino, dovete poggiare un ginocchio su uno e un ginocchio sull'altro. E quindi potete mettervi in 99. Sopra di voi ci saranno altri bambini, si disporranno sempre a quattro zampe, 98, e poi sopra 97, 96 fino alla cima di questa piramide, fino alla vetta con un bambino o una bambina che si è arrampicata. E quanti bambini ci saranno, formeranno questa piramide umana? E beh, 199, 98 fino a 1, voi già lo sapete, 5.050 bambini tutti insieme che giocano alla piramide umana, non appena potremmo farla, oppure un altro, quando, non so, farete una festa di compleanno, comunque festeggerete una qualsiasi ricorrenza e magari invitate 10 amiche 10, o 10 amici, complessivamente non ne invitate di più perché sennò dopo siete troppi e la festa non funziona. E se dovete contare, no, quando arrivano i vostri compagni, cosa fate? Vi date un bacetto? Vi stringete la mano? Non lo so, decidete voi. Comunque li salutate. Oggi non possiamo toccare, non ci possiamo salutare, però domani potremmo farlo. Quindi pensiamo al futuro. Pensiamo a quando inviterete 10 amici e vi stringerete la mano, va bene? Oppure un bacetto, ma solo uno, non due. Allora, stringiamoci la mano. Quante strette di mano vi darete se ogni bambino stringerà la mano a tutti gli altri invitati? Questo sembra un esercizio stupido di matematica, però magari a qualcuno può piacere e può capitare perché le feste poi le faremo. E allora come dobbiamo ragionare? Possiamo ragionare allora. Io sono quello che fa la festa, 10 sono i miei amici, arriva il primo amico. E io gli stringo la mano, poi arriva il secondo amico, gli stringo la mano, e quindi io stringerò alla fine 10 mani. E quindi il mio conto è a posto. E il secondo bambino quante mani stringerà? E, beh, anche lui 10, ovviamente, perché tutti gli altri sono 10, però fate attenzione, non posso dire 20 in totale, perché la prima stretta di mano con me già l'ho contata io, non la può ricontare pure lui, non sono due le strette di mano che ci siamo dati con lui, quindi non sono 10 le sue strette di mano che da aggiungere, ma sono 9. E così il secondo amico che viene stringerà anche lui 10 mani, però due già sono state contate, la stretta di mano con me e la stretta di mano col secondo, e quindi lui non stringerà 10 mani, ma ne stringerà 8. E così via, fino all'ultimo che non stringerà il decimo, non stringerà più nulla perché tutte le strette di mano sono state contate dai bambini precedenti. E quindi facendo i conti, io ho stretto 10 mani, l'altro 9, poi 8, poi 7, poi 6, poi 5, fino a 1. E quindi alla domanda quante strette di mano ci sono in una festa in cui io invito 10 bambini e tutti stringono la mano a tutti gli altri? Niente, dobbiamo fare il metodo di Carletto. 10 più 9 più 8 più 7 più 6 più 5 più 4 più 3 più 2 più 1. Però se sommiamo in questo ordine perdiamo tanto tempo e ci sbagliamo. Se invece sommiamo attraverso il metodo dell'arcobaleno, cioè primo con l'ultimo, primo con l'ultimo, primo con l'ultimo, vediamo che 10 con 1 fa 11, il 9 col 2 fa 11. 11, 11, 5 volte 11, 55. La risposta esatta è 55 mani. Beh, vi lascio che già vi ho fatto perdere tanto tempo, il nostro cervello è in fumo e con la formula, Perché poi dopo, tutto sommato, i matematici non hanno tempo di perdere, non hanno voglia di perdere tempo, devono fare altro, non certo fare i conti, e quindi usano le formule. Imparano le formule e poi se la cavano così. Io la formula ve la dico, però io penso che sia sempre meglio ragionare. La formula è che se io devo sommare n numeri, la formula è n per n più 1. Tutto diviso 2. Abbiamo sommato i 100 numeri, vi ricordate? Abbiamo fatto 101, quindi n più 1 significa il numero che ho scelto più 1. Quindi se il numero che ho scelto è 100, devo prendere il numero successivo, n più 1, che è 101, moltiplicarlo per... Lì era 50, vi ricordate che sarebbe la metà del numero scelto? E quindi è n, che è 100, diviso 2. Che fa 50. Quindi la formula generale per calcolare la somma dei primi n numeri è n per n più 1, tra parentesi, tutto diviso 2. Allora, io penso che possa bastare qui. La morale di questa favola è 1, che la favola è vera, ovvero un po' inventata, un po' vera, perché Gauss è veramente esistito. Gauss è uno dei più grandi matematici che l'essere umano abbia mai avuto, e chi di voi vorrà studiarlo, studiare matematica, lo incontrerà spesso. E poi, che molte volte, che nessuno di noi è Carletto, di Carletto ce ne sono pochi in giro, però l'idea è che quando vogliamo affrontare un problema, forse il modo migliore è uscire dagli schemi, non fare le cose come sembrano a una prima occhiata, ma immaginare. Con l'immaginazione si può risolvere, si possono risolvere anche molti problemi. E poi io direi anche un'altra, che se una volta io ho imparato una cosa, beh, questa cosa io la copio e la riuso, magari non dicendo che è mia, magari attribuendola alla persona giusta che è Carletto in questo caso, però copiare serve perché appunto in altre circostanze, se voi vi ricorderete della storietta, della storia di Gauss e i 100 numeri, magari vi servirà per risolvere altri esercizi. E se l'avete visto una volta, per quale motivo funziona? Se funziona, per quale motivo non utilizzarla anche un'altra volta? E quindi copiare a volte funziona. Detto questo, vi lascio a pensare a queste tante sfaccettature. Di Carletto ce n'è uno, ma noi siamo tutti dei piccoli, grandi Carletti e Carlette. La matematica termina qui. Adesso, se rimanete ancora in ascolto, forse ci sarà una pillola di grammatica, non so, e quindi vi do appuntamento alla prossima. E racconto di matematica sempre per chi vorrà. Si fece fa Oggi parliamo del gerundio anche perché c'è chi del gerundio parla a sproposito e uno di questi è Matteo Salvini. Il migrante è un gerundio. Quando Beh, migri sei un migrante. abbiamo sentito un brano che gira molto in questi giorni dalla bocca viva di Salvini, ma cosa ci resta da dire? Ci resta da dire che Salvini non sa proprio che cos'è un gerundio, non ha la minima idea di che cosa sia un gerundio e quindi parla a sproposito e ha gli strumenti di analisi della realtà di una persona che non sa usare l'italiano, perché migrante non è un gerundio, ma invece è un participio presente in italiano. Colui che migra è il migrante, il richiedente asilo è colui che richiede asilo, participio presente. Invece il gerundio è un altro modo verbale ed è quel modo verbale che finisce con le lettere in do, amando, leggendo, avendo capito o avendo grandisio, come il brano musicale iniziale cantato da Cristina Zavalloni, oppure essendo stato letto, se vogliamo arrivare a un passivo. Qualcosa in comune hanno il participio e il gerundio? Hanno in comune che sono modi verbali che si utilizzano in delle frasi subordinate. Che vorrà mai dire subordinate? Se noi prendiamo un testo scritto o parlato, le frasi non sono tutte uguali. Ce ne sono alcune che possono stare in piedi da sole. Per esempio, io posso dire sdraio, è una frase pur breve che sta in piedi da sola. Se io invece dico poiché sono stanca, questa è una frase che non sta in piedi da sola, ne ha bisogno di un'altra e per questo si chiama subordinata. Poiché sono stanca, mi sdraio. La prima frase è subordinata alla presenza della seconda frase, mi sdraio. Le frasi subordinate ci sono di tanti tipi e alcune sono fatte con un solo verbo, senza una congiunzione come poiché. Io posso riprendere l'esempio di prima, essendo stanca, mi sdraio. E quindi ho usato appunto un gerundio, che è un modo non finito, cioè un modo che non ha la persona. Se io dico soltanto avendo, non so chi è che ha qualcosa, perché non ha appunto la persona, non ha nemmeno il tempo e vedremo poi perché. Ma quindi, che cos'è questo gerundio? Niente, questo gerundio è un pochino, passatemi l'espressione, la Cenerentola della sintassi italiana, perché, come dicevi tu giustamente, è in qualche modo una proposizione subordinata, ma è una subordinata delle subordinate, non in senso gerarchico, ma nel grande gruppo delle proposizioni subordinate che possono usare dei modi finiti e quindi possono esprimere tempo, modo, persona e così via dicendo, il gerundio non ha nemmeno questo aspetto specifico, ma in qualche modo non esprime persona, non esprime tempo, esprime esclusivamente, serve esclusivamente ad esprimere il modo in cui si svolge l'azione. Per esempio, nella frase Marco entrò a casa correndo, il gerundio esprime il modo in cui Marco entra a casa. Il gerundio quindi è un modo verbale complesso, complicato da usare ed è anche per questo motivo che abbiamo deciso in questa pillola di concentrarci proprio sul gerundio, perché è talmente complesso che progressivamente sta uscendo dall'uso della grammatica italiana, anche sta uscendo dall'uso comune e in qualche caso anche a livello scolastico ne viene sconsigliato l'uso perché si ritiene che complichi senza motivo la struttura del discorso. Ma noi non pensiamo che sia così perché appunto essendo un modo verbale originariamente dedicato a definire la maniera in cui si si svolge l'azione permette di colorire e di colorare il discorso con una serie di sfumature che possono essere sfumature importanti. Vedremo che l'uso del gerundio dà luogo e ha dato luogo anche a equivoci importanti, però non è questo un motivo per rinunciare a usarlo e per rinunciare in qualche modo a usare in maniera consapevole un modo verbale che può essere più complicato. La parola gerundio deriva direttamente dal latino e etimologicamente, diciamo, la parola gerundio significa proprio appunto modo di comportarsi e fa riferimento ancora una volta a questo aspetto particolare del gerundio che indica appunto il modo in cui ci si comporta compiendo un'azione. Gerundio in latino è originariamente una declinazione dell'infinito. Nell'italiano questa declinazione dell'infinito è andata poi storicamente nel tempo semplificandosi e quindi è rimasto solamente una desinenza del gerundio, quella originaria dell'ablativo latino che termina appunto indo, questo lo spieghiamo anche a Salvini. Si capisce bene che è la declinazione dell'infinito anche in italiano se noi andiamo a cercare di analizzare in profondità dei i gerundi, in particolare quelli strumentali, perché se io prendo una frase simile a quella che tu hai proposto prima, correndo mi stanco, quel correndo significa con il correre e quindi è evidentemente la declinazione dell'infinito correre. Un altro motivo, insomma, per approfondire il gerundio è perché noi potremmo anche, ciascuno o ciascuna di noi potrebbe anche decidere di non usarlo mai. Ma di fatto, per capire in profondità testi complessi, bisogna riuscire a capire i gerundi che ci sono, che cosa significano, perché altrimenti avremo una comprensione superficiale e a volte nemmeno corretta dei testi che andiamo a leggere. Partirei, insomma, per questa complessità, da un esempio illustre della storia politica del nostro paese. Un esempio molto noto, soprattutto per chi si interessa della storia politica italiana recente, è uno dei comunicati, il nono comunicato, che le Brigate Rosse diffondono alla fine dell'operazione Moro. Come molti sanno, insomma, questo comunicato si rivolge alle organizzazioni comuniste combattenti, al movimento rivoluzionario e a tutti i proletari dicendo concludiamo la battaglia iniziata il 16 marzo eseguendo la sentenza a cui Moro è stato condannato. E questo comunicato che passa, diciamo così, agli onori delle cronache e poi anche alla storia della vicenda Moro, come il comunicato del gerundio, suscita un dibattito enorme nell'Italia dell'epoca, al punto che immediatamente al comunicato segue una dichiarazione della direzione della Democrazia Cristiana che si conclude con le parole la nostra speranza è concentrata sul gerundio, appunto perché ci si interrogava sul valore che questo gerundio aveva, se fosse un gerundio strumentale, cioè se si concludeva l'operazione con l'uccisione di Aldo Moro, e soprattutto sul valore temporale del gerundio. Le riflessioni si sono concentrate su quanta dilazione temporale questo gerundio presente o gerundio semplice, che di per sé implica una dimensione di contemporaneità, concludiamo con l'uccidere, concludiamo uccidendo, quanta dilazione temporale potesse garantire alle trattative che erano state avviate. Ci sono state anche prese di posizione autorevoli su questa discussione relativa al gerundio, in particolare quella di Leonardo Sciascia nell'Affair Moro, che uscì poco dopo la conclusione della vicenda Moro. Sciascia ebbe occasione di dire: c'è da dubitare che una concentrazione sul gerundio sia valsa e possa valere a salvare una vita, ma siamo ormai al surreale, ed effettivamente non si può che condividere questo, per quanto importante l'uso del gerundio non può valere a salvare una vita. Però appunto la riflessione di Sciascia proseguiva dicendo: ma in realtà poi si mette l'accento sul gerundio, un terzo degli italiani non sa proprio cosa sia gerundio e si sta interrogando sul significato della parola gerundio, si sta immaginando che sia un intermediario oppure un ente di autorità morale oppure addirittura addirittura un corpo di polizia particolarmente addestrato. Dice poi: la vita e la morte di Aldo Moro pendono a questo punto solamente da un gerundio presente, e sono presente e sono presenti solamente in un gerundio presente. Sappiamo come si è conclusa la vicenda di Aldo Moro, però l'uso del gerundio in questo comunicato, che è un comunicato scritto da una persona che ha una buona padronanza della lingua italiana, crearono all'epoca tutta quanta una serie di discussioni che sono state poi, si sono protratte nel tempo, e addirittura ci sono libri intitolati Eseguendo la sentenza. Amando, amando, mi domando dove andrò. Amando, amando, mi difendo, però troppe rinunce amando, certezze quasi mai, e son cresciuto amando, amando, a modo mio, anch'io, decisamente più prudente, molto meno incosciente. Questo amare che non ha alternative, più lo scacci dai pensieri, più vive. Dicevamo, ogni volta che troviamo un gerundio ci dobbiamo porre il problema di che cosa significa quel gerundio. Proviamo a prendere qualche piccolo brano. Il primo brano che vi leggo è tratto dagli Intellettuali e l'Organizzazione della Cultura di Antonio Gramsci. La formazione di massa ha standardizzato gli individui e come qualifica individuale e come psicologia, determinando gli stessi fenomeni che in tutte le altre masse standardizzate. Concorrenza che pone la necessità dell'organizzazione professionale di difesa, disoccupazione, superproduzione scolastica, emigrazione, eccetera. Rivediamo il gerundio. La formazione di massa ha standardizzato gli individui, determinando gli stessi fenomeni che in tutte le altre masse standardizzate, cioè con il determinare gli stessi fenomeni. Quindi questo è un gerundio tipicamente strumentale. Prendiamo un'altra autrice, un altro testo, questa è Sputiamo su Hegel di Carla Lonzi. La donna non oltrepassa lo stadio della soggettività, riconoscendosi nei congiunti e consanguinei, resta immediatamente universale. Le mancano le premesse per scindersi dall'ethos della famiglia, raggiungere l'autocosciente forza dell'universalità per la quale l'uomo diventa cittadino. Queste sono parole di Carla Lonzi, con la quale Lonzi sintetizza il pensiero di Hegel. Vi rileggo, dice: la donna non oltrepassa lo stadio della soggettività, riconoscendosi nei congiunti e consanguinei, ha un valore causale, indica la causa del fatto che le mancano le premesse per scindersi dall'ethos della famiglia, cioè significa poiché si riconosce nei congiunti e nei consanguinei. Possiamo vedere un altro esempio sempre preso da Lonzi, è uno di quegli esempi che rende evidente come il gerundio a volte è veramente complesso, complesso che può aprire un dibattito per capire qual è il suo valore. La donna, la cui esperienza femminista ha due secoli di vantaggio su quella del giovane e che all'interno della rivoluzione francese prima, di quella russa poi, ha cercato di unire la sua problematica a quella dell'uomo sul piano politico, ottenendo solo il ruolo di aggregato, afferma che il proletariato è rivoluzionario nei confronti del capitalismo, ma riformista nei confronti del sistema patriarcale. Quindi la donna ha unito la sua problematica, ha cercato di unire la sua problematica a quella dell'uomo, ottenendo solo il ruolo di aggregato. Questo ottenendo cosa significa? Con l'ottenere? Tanto da ottenere, quindi addirittura con un significato consecutivo, che dice la mia compagna di trasmissione? È perplessa, ci vede una sfumatura in qualche modo concessiva. La donna appunto ha cercato di unire la sua problematica a quella dell'uomo sul piano politico, pur ottenendo solo il ruolo di aggregato. Però è evidente che io e te magari possiamo vedere sfumature differenti, ma è altrettanto evidente che il gerundio permette a chi parla di unire più sfumature all'interno dello stesso discorso, per cui in questo gerundio c'è sicuramente una sfumatura strumentale e c'è altrettanto sicuramente una sfumatura concessiva. La donna ha portato avanti questo tentativo attraverso l'ottenimento, diciamo così, di un ruolo di aggregato, e nonostante questo. Ma i gerundi non hanno solo valori diversi, ma hanno anche forme diverse, perché c'è il gerundio semplice e il gerundio composto, che non indicano dei tempi, ma indicano dei rapporti temporali, cioè in che rapporto sta l'azione espressa dal gerundio l'azione del verbo che lo regge. Frase molto complicata, proviamo a arrivarci con un esempio. Diciamo così, nella tradizione scolastica il gerundio si distingue in gerundio semplice e gerundio composto, che vengono normalmente chiamati gerundio presente e gerundio passato. In realtà, appunto, come tu dicevi, non sono delle notazioni temporali, non sono un'azione presente e un'azione passata, ma appunto sono due notazioni che indicano il rapporto con la proposizione principale. Se noi riprendiamo la frase precedente, la frase del comunicato precedente, e concludiamo la campagna iniziata il 16 marzo eseguendo la sentenza, questo gerundio è un gerundio semplice o presente, il che non significa che l'azione di eseguire la sentenza si stia svolgendo in questo momento, ma significa che l'azione di eseguire la sentenza si sta svolgendo nel momento in cui noi concludiamo la campagna iniziata il 16 marzo. L'uso del gerundio semplice o presente, come più impropriamente viene definito, indica un'azione contemporanea, simultanea rispetto a quella della proposizione reggente, rispetto a quella che è imprescindibile per capire il senso del discorso. E quindi, ritornando al comunicato numero 9 delle Brigate Rosse, l'uso del gerundio presente doveva denotare appunto la contemporaneità tra le due azioni. Se invece l'estensore di quel comunicato avesse detto avendo eseguito e quindi avendo utilizzato un gerundio composto ausiliare e verbo, avendo eseguito, o gerundio passato, questa azione sarebbe stata già compiuta, quindi il gerundio composto avrebbe indicato un'azione anteriore rispetto a quella della principale e quindi un'azione già conclusa, già effettuata, per cui il gerundio semplice indica la contemporaneità tra le due azioni, quella della principale e quella della subordinata implicita con il verbo al gerundio. Il gerundio composto invece indica un'azione anteriore già terminata nel momento in cui si sta svolgendo quella della principale. Tornando all'esempio del comunicato numero 9, avendo eseguito avrebbe indicato un'esecuzione già compiuta. Comunque, non sappiamo se queste poche notazioni possono servire a qualcosina a chi le ascolta, ma vorremmo cercare, come dire, di concludere questo discorso andando a vedere qualcuno di quegli errori che si fanno molto molto di frequente nell'uso del gerundio. Quindi adesso non parliamo più di analizzare il gerundio per capire cosa significa, ma andiamo a vedere di evitare alcuni errori quando invece lo si usa il gerundio. Sono errori che, diciamo, noi da insegnanti nella pratica, con cui noi da insegnanti nella pratica scolastica ci scontriamo quotidianamente. E il primo deriva da un'altra regola, diciamo così, dell'uso del gerundio, che è appunto una regola che si cerca molto spesso vanamente di esplicitare con chiarezza a alunni e alunne, ma che non si riesce mai a rendere sufficientemente chiara per portare poi a un uso consapevole e corretto. La regola è questa: essendo il gerundio un modo che non esprime la persona, è scontato, è, diciamo, una convenzione condivisa tra i parlanti italiano il fatto che il soggetto del gerundio è lo stesso soggetto della proposizione principale. Conseguentemente, se io dico per esempio Marco entrò in casa correndo, è intuitivo che Marco entra in casa di corsa e che c'è coincidenza di soggetto tra la proposizione principale e quella espressa dal gerundio. Se io dico la professoressa entrò in classe e rimproverò gli alunni urlando, dove viene introdotto un altro elemento nel discorso che sono gli alunni, deve essere un patrimonio condiviso tra tutte le persone che parlano, per intendersi il fatto che chi urla è l'insegnante e non sono gli alunni. Nella nostra pratica scolastica, invece, almeno a livello scolastico, ci rendiamo sempre più frequentemente conto che non è così chiaro. Cioè, nel momento in cui io esplicito la comunicazione per le persone con cui parlo è chiaro, ma nel momento in cui le persone vanno a usare il gerundio per scrivere, molto spesso intendono invece dire che gli alunni stanno urlando mentre la professoressa entra in classe. Un altro errore, lo possiamo affrontare più velocemente, è quello di sbagliarsi nell'uso tra gerundio semplice e gerundio composto, ma l'abbiamo già detto prima. Questo è il discorso tra contemporaneità e anteriorità che abbiamo fatto poc'anzi. Un altro errore che troviamo frequentemente documentato come insegnanti nei ragazzi e nelle ragazze che scrivono soprattutto l'italiano, ed è l'ultimo errore, è appunto quello di trovare il gerundio collegato al verbo della proposizione principale della reggente attraverso una congiunzione, che è la congiunzione e. Per far capire a chi ci sta ascoltando, è come se io, volendo esprimere il concetto cantando stono, cioè il concetto mentre canto stono, dicessi invece cantando e stono. Questo errore è documentato in tutti e due i sensi, cioè tutte e due le posizioni sintattiche del gerundio, sia che esso preceda sia che esso segua il verbo della principale, per cui si trova spesso scritto appunto cantando e stono, oppure stono e cantando. E questo è propriamente un errore, perché come abbiamo detto il gerundio esprime, qualifica il modo, in sintesi, qualifica il modo in cui si svolge la proposizione principale, quindi va ricollegato direttamente alla proposizione principale senza l'intermediazione rappresentata dalla congiunzione, come se le Brigate Rosse, sempre nel famoso comunicato numero 9, avessero scritto concludiamo la campagna iniziata il 16 marzo e eseguendo la sentenza. No, è il modo in cui noi la concludiamo il fatto di eseguire la sentenza, e quindi quella congiunzione è sbagliata e va eliminata, va omessa. L'unico caso in cui un gerundio può essere collegato, può essere preceduto dalla congiunzione e, è il caso in cui questa congiunzione e serva a coordinare tra loro due gerundi, cioè a collegare tra loro due gerundi coordinati che sono nello stesso rapporto rispetto al verbo della proposizione principale, come è appunto nella poesia a tutti nota, cioè nell'infinito di Leopardi, ma sedendo e mirando. In questo caso questo e mirando collega i due gerundi che sono coordinati tra di loro e che si pongono nello stesso rapporto diretto, stessa relazione diretta con il verbo della principale, che in questo caso è io nel pensier mi fingo. Quindi mai una congiunzione che unisce il gerundio con il verbo della principale, cui invece va ricollegato direttamente e immediatamente. E niente, con questo noi abbiamo terminato questa carrellata sul gerundio, su questo modo così complicato, che speriamo possa essere stata di qualche utilità a chi ci ha seguito fino a qui. Inauguriamo un buon ascolto per il proseguo delle trasmissioni e anche per le future pillole, che non mancheranno, pillole di grammatica, a tutti quanti i nostri ascoltatori e alle ascoltatrici. Amarti ma fatica mi svuota dentro qualcosa che assomiglia a ridere nel pianto. Amarti ma fatica mi dà malinconia, che vuoi farci, è la vita, è la vita la mia. Amami ancora. consola le notti bianche, qualcosa che riempie vecchie storie fumanti. Amarti mi consola, mi dà la